L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua come sempre, l'altra Europa, il nostro appuntamento del sabato per raccontare l'Europa anche da altri punti di vista, un programma in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee, per raccontarla questa Europa con tante lingue diverse, con tanti punti di vista diversi. Queste puntate estive, queste puntate d'agosto le abbiamo sottotitolate Europa, datti una mossa, nel senso della possibilità in Europa di muoversi per turismo, per volontariato, per la scuola e per lavoro. E oggi proprio il lavoro è al centro del nostro programma, quelle che sono le possibilità, quelle che sono le opportunità, quelle che sono le difficoltà, perché l'Europa nel bene e nel male è tutto questo. Tutte le coordinate sulle nostre pagine Facebook e Twitter, le mie personali oppure quelle di Euronet Plus R24, questa è la giusta dicitura per trovarci sia su Facebook che su Twitter. Si parte, si parla di mobilità, si parla di lavoro, ma partiamo dai diritti. Partiamo con una storia di lavoro, o meglio la storia di una ricerca di lavoro, una storia di mobilità, ma è una storia di mobilità ridotta, perché Lorenzo, 35 anni, vive in provincia di Chieti ed è in sedia a rotelle da quando era bambino. Lo abbiamo già conosciuto Lorenzo perché il 20 marzo, in nome dei 750.000 disabili, inutilmente iscritti, come lui dice, alle liste di collocamento, ha affrontato un viaggio fisicamente molto stancante per presentare una petizione al Parlamento europeo. E da quel giorno qualcosa è cambiato. Ciao Lorenzo, ben ritrovato qui all'Altra Europa. Buongiorno dottor Taddia. È cambiato nel senso che è stata una giornata da scrivere nei libri di storia, perché l'Europa ha fatto capire all'Italia che non si può più continuare con una discriminazione tale, e soprattutto di trovare soluzioni ragionevoli a chi ha problemi di disabilità, inserirlo nel lavoro, svolgere un lavoro adeguato e progredire sempre di più nella ricerca di un'occupazione. Perché la tua denuncia era una denuncia molto puntuale, ce la vuoi ricordare, ce la vuoi riassumere? Allora, la mia denuncia riguarda essenzialmente la legge 68 del 99, che parla delle categorie protette, ma questa legge ha solo di bello il nome, ma la sostanza non ha mai imposto, non ha mai obbligato il datore di lavoro ad assumere un diversamente in azienda, perché questa legge 68 del 99 ha permesso agli imprenditori di, se un'azienda è in crisi per esempio, della sospensione dell'obbligo di assunzione, ha permesso, uno paga una multa misera che è di 10 euro al giorno, di 2-3 euro, adesso non ricordo la cifra esatta, e pagando anche questa multa c'è meno l'obbligo, non c'è l'obbligo di assunzione e si può continuare a tollerare un'ingiustizia tale. La legge 68 non ha mai previsto questo. Questa direttiva europea, con due semplici parole, ripercorre una storia e dice all'Italia c'è l'obbligo da parte del datore di lavoro di assumere, ma non solo, di trovare soluzioni ragionevoli. Voglio sottolineare, vi ringrazio di cuore di questo, che ad oggi se uno va ai centri per l'impiego trova ancora annunci come gruista, saltatore ad alta pressione, idraulico, elettricista. Lei si può immaginare un ragazzo su sedia a rotelle che possa fare questo genere di lavoro? Purtroppo va avanti così. L'Europa ci ha dato una grande lezione di vita allo Stato italiano, all'Italia in generale, perché a prescindere dalla legge ci vuole uno spirito, una cultura diversa per capire le problematiche che un disabile ha. E tu, Lorenzo, che hai studiato molto la situazione, immagino hai anche guardato quello che succede all'estero. Ci sono comunque invece esperienze virtuose, ci sono stati che potrebbero essere presi a modello per creare una vera integrazione sul lavoro? Puoi farci qualche esempio? La Norvegia, la Danimarca, tanti altri paesi, che è diversa anche la cultura, è diverso il modo di rapportarsi alla disabilità. Perché io, quando sono stato a Bruxelles, chi mi ha risposto ha detto: qua non si tratta di elemosine, si tratta dell'applicazione di un diritto. C'è più un amore verso chi ha delle problematiche. In Italia, prima di tutto, dobbiamo sconfiggere una barriera mentale, un pregiudizio che alberga nell'ignoranza, perché il disabile non viene visto come una risorsa, ma in alcuni casi viene visto come un peso, come un'indifferenza totale, non viene neanche ascoltato. È questo che mi rattrista molto. Mm-hmm. Io sono stato portavoce di un problema generale e purtroppo spero che le mie forze mi aiutino a sopportare un'ignoranza tale. E questo mio appello è rivolto a tante altre persone, a non arrendersi di fronte alle ingiustizie che dobbiamo subire ogni giorno, non solo per il lavoro, per tutto, perché il panorama della disabilità in Italia è variopinto di ingiustizie scioccanti. Quindi, dopo questa sanzione per l'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea per il mancato recepimento della direttiva sul diritto di lavoro dei disabili, adesso vedremo se le cose finalmente cambieranno. Tu nel frattempo hai trovato lavoro? Io precario, ma qualcosa c'è. Okay. Amo dire che questo è stato fatto per tante persone. Io sono stato il portavoce di tanti e spero che queste le mie parole arrivino dove devono arrivare, perché bisogna affrontare un'altra questione adesso. Questa direttiva deve essere recepita dallo Stato membro, in questo caso l'Italia, e dal 4 luglio, il giorno che c'è stata la condanna, nessuno si è pronunciato nel dire abbiamo intenzione di recepire. Questo silenzio rattrista me pesantemente. Spero che l'Italia recepisca questa direttiva, almeno per una questione di buon senso, di buona giustizia e soprattutto di amore verso il prossimo. Questo è il sogno più grande che uno possa avere, è quello che ho io. Assolutamente, insomma, il sogno di poter realizzare, di aver realizzato un proprio diritto, il tuo e di tante, tantissime altre persone. Lorenzo, grazie davvero e in bocca grazie al lupo. Grazie a lei, dottor Taddia, è sempre strepitoso, vi ringrazio tutti di cuore, ovviamente. Buona estate. Almeno lei ha dato voce ad uno che ha la lingua abbastanza biforcuta per esporre questi problemi, grazie. Grazie a te, Lorenzo. Adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Diritti europei. La tua Europa ti dà una mano. I cittadini europei che vivono e lavorano in un paese europeo diverso dal proprio sono 12 milioni. La tua Europa è il sito che risponde a tutte le domande. Per avere informazioni sui diritti che la legislazione dell'Unione Europea riconosce ai suoi cittadini, ricevere aiuto per ottenere il riconoscimento di tali diritti da parte di un'amministrazione pubblica nazionale e porre una domanda generale sull'Unione Europea, il sito è uno strumento prezioso. A seconda della necessità, verrete messi in contatto con un gruppo di giuristi indipendenti, con il personale delle amministrazioni nazionali che fungerà da mediatore o con uno sportello informativo che vi fornirà utili indicazioni. Il tutto, ovviamente, in forma totalmente gratuita. Per maggiori informazioni, cercate la frase «Serve aiuto» su europa.eu. L'altra Europa. Il lavoro che manca, ma anche il lavoro che c'è, il lavoro che si cerca, il lavoro che non si trova. le proboste che non si sa bene dove andare a cercare. E l'Europa che è, che diventa un grande datore di lavoro, una grande vetrina, una grande opportunità. È agosto, è il periodo delle vacanze, è strano parlare di lavoro. Invece abbiamo scelto di farlo proprio in questo periodo perché invece può essere un momento di discernimento, un momento di riflessione, anche un momento di preparazione per fare delle scelte che possono essere quella di sistemare il curriculum, ma anche quella di prendere delle decisioni, quella di guardarsi intorno perché intorno il lavoro c'è. E la Commissione Europea ha messo in piedi da diverso tempo uno strumento importante. Questo strumento è EURES, è il portale europeo della mobilità professionale. È un servizio veramente di incontro tra quella che è la domanda e l'offerta. Per capire ancora una volta come funziona EURES, qual è il suo potenziale e quelle che sono alcune delle opportunità in divenire, abbiamo invitato nuovamente Daniele Lunetta, EURES Manager della Direzione Generale per le Politiche per i Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro. Buongiorno Daniele, ben ritrovato qui all'Altra Europa. Buongiorno, ben ritrovati a voi e ai nostri radioascoltatori. È bellissima la suggestione iniziale, approfittare sotto l'ombrellone di questo periodo di relax meritato dopo un anno di corse per prepararci al meglio rispetto a quelle che sono le opportunità. Chiaramente in una chiacchierata si diceva non facciamo del last minute, abbiamo programmato quelle che erano le attività di EURES nel periodo luglio-agosto, già dal mese di maggio-giugno abbiamo avviato delle selezioni per il dual training nel settore turismo, ma sicuramente queste opportunità torneranno a settembre, quindi approfittiamo di questo periodo per migliorare le nostre capacità di incidere sul mercato con il nostro curriculum, con le nostre lettere di presentazione. Cosa stiamo preparando per settembre? Stiamo preparando sicuramente delle opportunità progettuali come appunto continuare sul dual training con la Germania, ma che sarebbe anche, scusa, il dual training, se lo vuoi un attimo. Sì, assolutamente, certo, il percorso di apprendistato con una visione diciamo più rispetto a quella italiana legata all'apprendistato per imparare un mestiere, cioè quello di cominciare dei percorsi di base entrando in azienda a lavorare e imparare quello che può essere anche il completamento della cultura generale, visto che chiaramente parliamo di un percorso di mobilità della cultura del paese che ospita, quindi nel caso della Germania sarebbe anche un modo per avvicinarsi a quella cultura, a quell'integrazione che si può fare nel tessuto europeo in un nuovo Stato membro, appunto come la Germania. Sì. Ma oltre ai percorsi di apprendistato abbiamo anche l'opportunità di sviluppare progetti per qualifiche professionali più alte, per esempio la Danimarca e la Svezia ci chiedono sempre di più dei percorsi di inserimento dei nostri dottori specializzati, che non solo accolgono appunto la professionalità del dottore, del medico all'interno dell'ospedale, ma anche le famiglie con dei percorsi di integrazione per quei dottori che già hanno costruito la loro famiglia e che decidono appunto di mettersi in mobilità e provare questa esperienza in uno Stato europeo. Quindi non solo un'opportunità di lavoro personale, ma anche un'integrazione per la propria famiglia con dei percorsi ad hoc linguistici e anche di inserimento professionale. Mm-hmm. Quindi insomma assolutamente importanti e scelte anche complete. Daniele, ricordiamo che EURES è un servizio gratuito ed è un servizio non per addetti ai lavori, nel senso che il singolo cittadino può acquisire e trovare le informazioni necessarie, giusto? Sì, assolutamente. Noi quello che vogliamo sempre di più promuovere è proprio il veicolare le informazioni tra i giovani, tra i cittadini, proprio uno strumento indipendente che si può avvalere dell'ausilio degli EURES Advisor, ma che comunque già da soli possono trovare quelli che sono le varie opportunità che ci sono sul territorio degli Stati membri. E poi chiaramente anche per avere un approfondimento rispetto a quella che è la condizione di vita e lavoro che andranno ad affrontare, la rete con gli EURES Advisor può mettere a disposizione tutte le conoscenze, tutte le opportunità che ci sono sia per quanto riguarda una sistemazione per esempio di vitto nello Stato membro, ma anche opportunità di finanziamento, perché credo che è importante conoscere anche i percorsi che vengono messi a disposizione sotto forma di benefit economici per affrontare questo tipo di esperienza. Mm-hmm. E Daniele, dai dati a vostra disposizione, è un servizio immagino molto utilizzato dai giovani, e da chi forse cerca un primo lavoro, o c'è anche chi ha voglia di reinventarsi una vita che parte magari proprio da una delle offerte di Eures? Ma io credo che all'interno troviamo un buon mix di tutte e due gli ingredienti che tu hai appena citato, però credo che molto i giovani utilizzano questo servizio perché comunque si affacciano alle esperienze, soprattutto i ragazzi che nel percorso universitario hanno provato l'esperienza dell'Erasmus, sicuramente sono quelli che hanno una maggiore propensione poi a ritornare in Europa per lavorarci, per provare una nuova esperienza di vita oppure per continuare quel percorso iniziato già diciamo all'interno di un ateneo, di una facoltà, quindi un buon mix. E ci vuoi dare qualche altra novità settembrina o abbiamo sì, detto assolutamente. Tutto? Assolutamente, no, io credo che le novità più importanti sono i percorsi che stiamo costruendo nel Regno Unito insieme a Jaguar Land Rover per portare le nostre professionalità sia a livello ingegneristico nel settore dell'automotive ma anche nel settore della catena, quindi anche per quei profili che in questo momento in Italia hanno avuto maggiore difficoltà negli ultimi anni proprio a causa della crisi, ma anche un programma interessante che è Your First Eures Job, che stiamo pubblicizzando molto anche sul portale, attraverso il portale Click Lavoro, che è un programma proprio mirato a dare dei benefit economici ai ragazzi che vogliono provare un'esperienza di lavoro all'estero con un periodo contrattuale non inferiore ai 6 mesi. Credo che questa sarà la novità veramente del prossimo autunno, su cui punteremo tantissimo e che si affiancherà sostanzialmente a quella che è la garanzia giovani, a tutte quelle che sono le misure che il governo in questo periodo ha varato proprio per aiutare i nostri giovani a trovare un'opportunità di lavoro e a scorciare il periodo della transizione appunto dal periodo scolastico al mondo del lavoro. Perfetto, ricordaci i vari indirizzi internet per trovarvi. Punto di partenza sicuramente www.clicklavoro.gov.it e poi da lì sicuramente tutte quelle che sono le sezioni legate a Eures, Your First Eures Job e tutti i progetti collegati anche con i collegamenti con il portale europeo e tutti i servizi d'Europa che mettono a disposizione vacanze e curricula per arricchire il panorama delle opportunità di lavoro negli Stati membri. Questa è l'Europa delle opportunità, è l'Europa che va sfruttata. Grazie davvero a Daniele Lunetta, buone vacanze, ci ritroveremo sicuramente in autunno per parlare ancora di Europa e di lavoro. Grazie, ciao, grazie, Daniele. Con piacere, buone vacanze a tutti. Grazie. Con el corazón se puede cantar mientras con amor se va trabajando. Con amor, con amor, con amor. Y es que trabajar nos lo manda Dios y es mucho mejor hacerlo cantando. Con amor, con amor, con amor. Y por trabajar siempre tengo yo un beso de adiós y otro cuando vuelvo. Con amor, con amor, con amor. Y es que trabajar es un don de Dios y por trabajar se encuentra el amor. Con amor, con amor, con amor. E un altro osservatorio privilegiato che butta sempre un occhio al di là dei confini per vedere quelle che sono le opportunità è quello di scambieuropei.info, un portale ricchissimo di proposte, quindi abbiamo chiesto anche a loro di darci qualche dritta, di darci qualche esempio di quelle che possono essere soluzioni per un cambio di vita o comunque per trovare un lavoro. Con noi c'è Stefano Campanari, presidente dell'Associazione Scambi Europei. Ciao Stefano, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno a tutti, ciao. E voi insomma siete specializzati proprio nell'offrire quelle che sono opportunità non solo di lavoro, ci sono anche scambi culturali, di volontariato, però ti ho chiesto un po' di selezionare così anche a titolo di esempio del cosa, perché uno deve entrare anche una prospettiva mentale, una prospettiva culturale credo, e quindi magari avere un ventaglio di possibilità ti aiuta nel scegliere di voler o poter fare una scelta perlomeno. Certo, assolutamente, no, assolutamente, è molto giusto. Beh, siamo in un periodo particolare perché ovviamente tutte, diciamo, le call lavorative che riguardavano il periodo stagionale estivo sono praticamente chiuse, penso certo. All'animatore nei villaggi turistici piuttosto che insomma alla stagione nei bar, eccetera. Però sono comunque aperte diverse prospettive, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista privato. Ecco, facendo una breve selezione insomma delle offerte che potevano essere più interessanti, mi sembra insomma giusto citare ad esempio dal punto di vista perlomeno istituzionale gli 80 stage che vengono offerti dal Consiglio dell'Unione Europea. stage retribuita a 900 euro al mese, in questo caso vengono inclusi tutti i cittadini dell'Unione Europea, per cui c'è una concorrenza diciamo abbastanza alta, però il progetto è molto interessante, molto valido, e la scadenza in questo caso è di settembre, per cui c'è tempo insomma per studiare bene il bando e l'opportunità. Perfetto. Sempre dal punto di vista istituzionale è molto interessante anche i tirocini del Comitato delle Regioni, c'è una scadenza il 30 settembre per la sessione primaverile, anche questa a Bruxelles, quindi anche questa è un'opportunità di respiro comunque internazionale, europeo, molto molto interessante e abbastanza ben retribuita insomma per un giovane. Per quanto riguarda invece un paio di opportunità diciamo così più pensate per gli italiani, è interessante la call della Disney per il parco a tema che hanno in Florida, il Walt Disney World, che ricerca, come tutti, praticamente quasi tutti gli anni, dei rappresentanti della cultura italiana per il loro parco in Florida, per l'appunto. Le selezioni saranno ad ottobre a Milano e Roma, però bisogna inviare la candidatura quanto prima, perché già stanno raccogliendo insomma le candidature dei ragazzi interessati, per poi fare un primo screening e andare insomma a selezionare chi realmente partirà ad ottobre. Ottimo. Ecco, questo mi sembrava anche molto interessante. Degno di nota secondo me è anche il concorso, diciamo così, le borse di studio che sono state messe a disposizione dalla Barilla. Ecco, non è proprio un lavoro, però insomma può essere comunque interessante per un giovane in cerca di una prospettiva, che in occasione del centenario della nascita dell'imprenditore di Pietro Barilla, in pratica ha messo a disposizione, mette a disposizione 10 borse di studio da 40.000 euro per quei giovani che hanno delle idee interessanti su come migliorare il pianeta e la qualità della vita in genere, quindi molto ampio come tema, includendo però anche un percorso formativo ideale per realizzare questa idea. Le 10 proposte più interessanti verranno appunto premiate con una borsa di studio del valore di 40.000 euro ciascuna. Perfetto, ottime, ottime proposte, ottime indicazioni. Ricordiamo, esatto, che tutti i dettagli si possono trovare sul sito scambieuropei.info, da cui poi potrete di link in link viaggiare per conoscere tutte le informazioni. Grazie a Stefano Campanari, presidente dell'Associazione Scambi Europei. Ciao, buon grazie sabato. Grazie a voi, Federico, buona giornata, grazie. Un euro post-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. Euro post-it. Un concorso per immortalare l'Europa nella tua regione. In questi anni l'Europa è arrivata nella tua regione finanziando progetti ed iniziative. Qualcuno di questi progetti ti sta particolarmente a cuore? Oppure pensi che abbia incentivato particolarmente lo sviluppo locale della tua comunità? Fotografalo e partecipa al concorso L'Europa nella mia regione, organizzato dalla Commissione europea proprio per valorizzare gli interventi rivolti alle comunità locali. I vincitori saranno scelti da una giuria popolare e da una giuria composta da fotografi professionisti ed esperti in comunicazione. In palio ci sono 1.000 euro in apparecchiature fotografiche e un viaggio a Bruxelles a ottobre. Per partecipare c'è tempo fino al 23 agosto. Tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook della Commissione europea, facebook.com/European Commission, cercando Europe in My Region. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa, una puntata dedicata al lavoro, al muoversi in Europa per lavorare. Vogliamo portarvi anche testimonianze di chi queste opportunità le ha vissute. Abbiamo pochi minuti fa parlato del progetto EURES. Adesso andiamo a conoscere un giovane spagnolo che grazie ad EURES ha potuto appunto avere una formazione, ha potuto avere un'occasione professionale. Diamo il benvenuto a Paul Herrera Escardó. Ciao Paul. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buon sabato a te. Tu sei spagnolo e grazie ad EURES che occasione hai avuto? Cioè, in pratica ho finito di studiare, mi hanno detto sei interessato ad andare a fare un stage a Italia, e ho detto sì, subito, perché di là portavo 3 anni cercando lavoro, non ce lo trovava. E quando sono arrivato qua, niente, ho fatto 2 mesi di stage e dopo mi hanno detto sei bravo, vuoi fermare a lavorare con noi? E subito ho detto che sì. Tu che formazione avevi in Spagna? Ho studiato chimica, sul campo della chimica, a una scuola superiore. Certo, e grazie ad Eures hai trovato questo posto di lavoro, questa opportunità, dove? In questo, Alessandria. Ad Alessandria, ho capito. Ma è stata un'esperienza solo di formazione, nel senso una sorta di tirocinio, o ti hanno assunto immediatamente? Ho fatto anche il tirocinio, ma più che un'esperienza solo lavorativa, anche è stata un'esperienza culturale. Ho anche imparato una lingua, e che è così importante. Ho fatto anche qualcuna relazione, qualcuna azienda spagnola per l'azienda adesso. Certo, e oggi dove? Oggi sei felice, mi sembra, sei realizzato, e dove ti trovi? Adesso sto al lavoro, lavorando. Ok, buon lavoro Paul, grazie per così averci dato un assaggio di cosa significa cercare l'opportunità, sfruttare l'occasione e appunto progredire anche sul proprio percorso professionale. Ciao e buona estate. Ciao, ciao. L'Europa delle opportunità in campo professionale da qualche anno ha messo in piedi un altro progetto che è una sorta di spin-off dell'Erasmus, esperienza fondamentale, esperienza di studio fondamentale anche per costruire quella che è un po' la spina dorsale dell'Unione Europea. Ecco, quello che si fa con l'università da qualche anno si può fare anche nell'impresa, l'Erasmus per imprenditori, questo è il nome di un progetto importante, di un progetto sfruttato già da molti giovani che hanno avuto l'occasione di mettersi in gioco, di sperimentarsi, di andare a imparare sul campo. Per capire che cos'è Erasmus per imprenditore, per capire come funziona, come ci si può proporre sia in quanto imprenditore ospitato, ma anche in quanto imprenditore ospitante, diamo il benvenuto ad Arnaldo Abruzzini, segretario generale di Eurochambres, l'organismo europeo delle Camere di Commercio e Industria. Buongiorno Abruzzini. Buongiorno. Buongiorno, allora, la vostra organizzazione appunto segue un po' il programma Erasmus per i giovani imprenditori, quindi credo che lei sia la persona adatta per spiegarci operativamente che cos'è oggi Erasmus per imprenditori. Il grande successo che è stato registrato dall'Erasmus tradizionale che tutti conosciamo come studenti universitari che sono stati in giro per l'Europa a fare esperienze interessanti e formatrici per la nostra cultura, è stato riproposto a livello imprenditoriale. Quindi nel momento in cui la crisi ha toccato in maniera forte le nostre imprese e i nostri imprenditori, si è deciso di costruire un processo che potesse facilitare l'apertura internazionale degli imprenditori e quindi di coloro che dovessero creare una nuova impresa, dando l'opportunità di imparare da coloro che l'impresa l'avevano già fatta quali erano le modalità vincenti per portare la nuova impresa al successo, e questo è Erasmus per imprenditori. Quindi un giovane imprenditore o aspirante imprenditore ha la possibilità di passare un periodo di qualche mese, adesso la durata immagino sia variabile, all'interno di un'azienda, però è un qualcosa che va al di là di uno stage o di un tirocinio, immagino. Ma è molto diverso da uno stage. Uno stage di fatto permette di apprendere alcune modalità lavorative che si applicano nei vari settori. L'Erasmus per imprenditori permette di capire quali siano i fattori di successo per creare un'impresa. E questo è un valore straordinario per la nostra società, perché di fatto coloro che poi creano posti di lavoro, immaginiamo in un momento in cui l'occupazione giovanile è così forte, per esempio in paesi come l'Italia, avere l'opportunità di formare persone che creino imprese e quindi creino posti di lavoro è un valore per la nostra società che non ha uguali. Abruzzini, le chiedo un attimo di pazienza perché volevamo anche una storia, quindi do il benvenuto a Fabio Fulchir, friulano, e ha fatto appunto, ha vissuto l'esperienza di Erasmus per imprenditori. Ciao Fabio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Raccontaci come ti è venuta l'idea, come hai conosciuto questo progetto e come ti sei buttato in questa avventura. Salve, questo progetto l'ho conosciuto, all'epoca stavo terminando il dottorato di ricerca all'Università di Udine e stavo cercando degli sbocchi per, più che altro con questo dottorato avevo sviluppato un sistema per far incrementare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici. Sì. E ho trovato tramite il Friuli Innovazione, un incubatore di imprese che si trova in Friuli Venezia Giulia, tramite loro ho trovato questa opportunità. Uh-huh. Perché no, infatti ho detto, perché non mettermi in gioco, no? Per magari fare, per creare un'impresa o verificare anche se ero in grado o se era nelle mie corde fare l'imprenditore, per capire anche cosa serviva per diventare imprenditore. Uh-huh. Non è detto poi che uno lo diventi, ma può essere utile questo strumento anche per capire se si hanno le caratteristiche, insomma, caratteristiche per, certo. O comunque l'ho preso la palla al balzo perché trovavo interessante poter lavorare all'estero ad un progetto a cui ci tenevo e fare esperienza in un'altra azienda, in un'altra realtà. E dove l'hai fatta questa esperienza? Questa esperienza l'ho fatta in Portogallo. Okay. In una, presso un'azienda che si occupa di progettazione per, nel campo aerospaziale, e dove ho lavorato in corso Erasmus 6 mesi, sì. Nel 2010, dove metà tempo, questo Erasmus in pratica è composto in questo modo: metà tempo diciamo si lavora per questa azienda e si fa esperienza, contatto con l'imprenditore, con la realtà, insomma, e l'altra metà del tempo si ha a disposizione strumenti e tempo per portare avanti la propria ricerca. Ok, quindi insomma c'è un doppio canale attivo. E cosa ha portato tutto ciò? Sei tornato con le idee un po' più chiare, immagino, e... Certo, fatto idee più chiare, ma soprattutto ho portato avanti la ricerca. Loro sono del resto rimasti interessati a questo prodotto, a sviluppare il prodotto, a entrare nel campo delle energie rinnovabili, e abbiamo sviluppato, depositato insieme un brevetto depositato a Lisbona, penso a livello europeo, sì, è pubblicato adesso da marzo. E abbiamo anche oltretutto trovato un canale di finanziamento per portare avanti questa ricerca, vincendo un finanziamento europeo, bando Eurostars, uh-huh. La quale collabora anche l'Università di Udine e un'azienda di Genova. Ok, insomma, quindi ottimo, mi sembra che sia stata un'ottima semina e anche sì. Un ottimo raccolto iniziale. Grazie davvero Fabio per averci raccontato la tua esperienza, in bocca al lupo per la tua attività. Abruzzini, abbiamo sentito dalla viva voce di questo giovane imprenditore il valore di una esperienza di questo tipo. E per chi ospita, per l'imprenditore che sceglie di avere all'interno della propria azienda un giovane che vuole imparare, qual è il valore che questa esperienza può portare? I valori sono molteplici. Da una parte c'è il desiderio, per esempio, di ampliare la propria rete commerciale, rete di contatto in paesi differenti, perché ricordiamoci che questo avviene, lo scambio avviene normalmente tra imprese di piccole e medie dimensioni che non necessariamente hanno la capacità di costruirsi una rete commerciale in paesi differenti. Quindi la ragione commerciale è una ragione molto forte. La seconda ragione, che è quello che abbiamo sentito dall'esperienza che ci è stata raccontata, è quella di poter usufruire di conoscenze applicate su ricerche specifiche di settore sui propri prodotti e che quindi possono portare un contenuto di innovazione alla produzione dell'impresa ospitante di notevole valore. Mm-hmm. Abruzzini, per chi volesse avere informazioni, qual è il canale migliore? Ma in Europa esistono all'incirca 200 punti di entrata, diciamo, fisici, che sono gestiti dalle camere di commercio, dalle associazioni imprenditoriali, dalle istituzioni di supporto all'imprenditoria giovanile nei vari paesi, ma forse la via più facile oramai nel mondo digitale è entrare nel sito internet di Erasmus per giovani imprenditori, in inglese Erasmus for Young Entrepreneurs, e avere tutte le informazioni sia per fare le applicazioni come ospitante che come ospitato. Perfetto, grazie davvero, buon sabato e buon lavoro a lei e a tutto il suo team. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Insegnare l'Europa ai ragazzi è facile con Europarl TV. I materiali didattici video sono da sempre strumenti molto efficaci. L'Unione Europea e il suo funzionamento sono argomenti che possono essere resi accattivanti e interessanti se trasmessi in forma audiovisiva. Ecco perché il pacchetto di DVD Europarl TV totalmente gratuito è un'ottima opzione per gli insegnanti. Divisi per argomenti in base alla fascia di età degli studenti, spaziano dal mercato unico agli alimenti bio, dalle prime lezioni europee al Trattato di Roma, dai programmi spaziali ai padri dell'Europa. Per maggiori informazioni e per ordinare il materiale, cercate Europarl TV DVD nel sito bookshop.europa.eu. L'altra Europa. Ancora lavoro, ancora Europa, ancora esperienze virtuose. L'abbiamo conosciuta un paio di mesi fa quando è stato lanciato il progetto e volevamo tornarci oggi per farvi capire quanto la creatività, quanto le nuove tecnologie, quanto l'innovazione possa essere veramente una svolta. Con noi c'è Paolo Lombardi, coordinatore del progetto TechPix di Trento Rise. Ciao Paolo, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno. Allora, ricordiamo un po' il contesto. Trento Rise è questo incubatore, questo centro di innovazione tecnologica che c'è a Trento, uno dei poli, un polo scientifico anche all'interno della rete europea, dico bene? Sì, corretto. Trento Rise è connesso con l'Istituto Europeo di Tecnologia, che è una rete europea di grandi aziende, istituti universitari e istituti di ricerca. Uh-huh. E questo è il polo italiano, a Trento c'è il polo italiano. E all'interno di questo polo è stato avviato questo importante progetto TechPix, una sorta di acceleratore di persone. Ricordaci qual era appunto l'input iniziale, ma poi anche raccontaci cosa è successo in queste settimane, in questi mesi. Sì, l'idea è stata quella di portare a Trento delle persone, degli imprenditori tecnologici da tutto il mondo che potessero qui sviluppare, grazie anche al supporto della ricerca sviluppata a Trento e della rete di impresa locale e italiana, potessero sviluppare le loro idee innovative tecnologiche. E la cosa è andata molto bene, abbiamo avuto 620 domande da 54 paesi diversi, sono arrivate poi anche attraverso problemi legati al visto che siamo riusciti a risolvere grazie al supporto, devo dire, anche del governo e del ministero. Sono arrivati 63 persone, 19 nazionalità diverse, ci sono circa 20-25 italiani, gli altri sono Israele, Slovenia, Croazia, Russia, Ucraina, Polonia, Francia, Regno Unito e così via. Mm-hmm. Nepal. Mm-hmm. Anche, quindi insomma, veramente oltre confine. E l'idea era proprio quella di lavorare sul potenziale della persona prima che dell'idea, del team, quindi creare subito forti connessioni tra i cervelli. Esatto, li abbiamo, quando sono arrivati, queste persone stanno qui per 6 mesi a Trento, sono arrivati intorno al 30 di maggio e lì li abbiamo shakerati un pochino, abbiamo fatto in modo che cadessero un po', sai, tutte le barriere culturali che è naturale che ci siano, e farli entrare subito in uno stato creativo per trovare delle idee imprenditoriali che avessero a che fare con le loro skill e che potessero anche essere sviluppate in modo vantaggioso qui a Trento. E quindi abbiamo accelerato, diciamo, i loro cervelli, se posso dirlo. Ecco, dopo qualche mese di esperienza, dopo qualche mese di percorso, ci sono già i primi risultati? Sì, allora fine luglio e per la precisione il 23 abbiamo concluso le selezioni, tra virgolette, delle idee a questo punto, quindi sono arrivati il 30 maggio le persone e poi abbiamo selezionato le idee a cui abbiamo dato un gettone di 25.000 euro per svilupparle, per far partire un'impresa in Italia e sviluppare queste idee. Quindi abbiamo alla fine finanziato 18 idee, 18 team imprenditoriali, dove abbiamo visto delle storie fantastiche, ad esempio un ragazzo di Venezia che adesso sta facendo impresa con un programmatore russo, lui designer italiano e lui russo programmatore. Un'altra storia di un ragazzo ungherese, una ragazza giamaicana e un americano statunitense che è venuto qui anche con la moglie, che è ricercatrice peraltro alla fondazione Edwin Mack, che si occupa di enologia e genetica genomica qui vicino a Trento, e lui è un designer di giochi. Si sono messi insieme questi tre per fare un nuovo modello di recruiting online con dei giochi per le grandi aziende. Quindi storie internazionali che credo si vedano in poche altre parti del mondo. Certo, quindi il valore dell'incontro, il valore del confronto. Paolo, volevo chiederti una cosa anche, ma a Lattere, no? Siamo immersi ormai da mesi, da anni, dalla parola crisi, che sembra un grande fardello, un grande freno a mano, è uno spauracchio anche. Ecco, in una situazione del genere, dove si mette al centro la persona, l'idea, la creatività, la comunione di intenti anche, la crisi si respira, la crisi diventa uno stimolo, la crisi diventa un qualcosa di superabile? Beh, sì, sembra quasi all'interno del gruppo che la crisi non esista. Queste persone stanno mangiando pochissimo e stanno dormendo pochissimo, quindi vivono anche la crisi forse di più perché stanno lavorando come dei pazzi. Ma ma c'è uno spirito molto forte di voglia di innovare, voglia di cambiare le cose, di ritornare a sognare e di sognare però in modo pratico, cioè mettendo in atto delle innovazioni, che possano raggiungere il più presto possibile la società, il mercato, tramite il mercato della società. Quindi direi almeno un punto di partenza interessante, importante in questo momento. Questo è bello, poter di nuovo sognare però con senso pratico, mi sembra una sintesi perfetta. Ricordiamo il sito, che è techpix.eu, per tutte le informazioni. Il progetto continua, quindi in bocca al lupo Paolo, a te, al tuo team e a tutti i ragazzi appunto. Grazie che mille. Si stanno accelerando. Sì. Ciao, buona estate. Cioè, crepi il lupo, grazie. Ciao, grazie, ciao. Ciao, saluti a tutti. Europost-it. University Europe, un aiuto alle future matricole europee. State per scegliere l'università? Studiare architettura a Milano costa di più o di meno che studiarla a Stoccolma? La qualità degli insegnamenti di ingegneria a Londra è migliore o peggiore della stessa facoltà in Finlandia? Qual è il miglior rapporto qualità-prezzo dei vari atenei europei? Per questo c'è il portale Universities Europe, che aiuta ad orientarsi tra le facoltà europee e sul quale sono a disposizione i dati sulle tasse accademiche e i confronti tra costi e qualità in base ai ranking internazionali. Siete talmente indecisi che sapete solo dire in quale paese volete andare a studiare? Il sito vi mostra tutta l'offerta accademica di quel dato paese, divisa per facoltà e costi. Siete curiosi? Andate su universitieseurope.net. Questi sono i nostri Europost-it. Come sempre vi ricordo che potrete riascoltare e trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare sul nostro sito radio24.it, oppure sul sito hernetplus.eu e in tutte le nostre pagine Facebook e pagine Twitter. Adesso invece, in conclusione di puntata, andiamo a scoprire quelle che sono le opportunità proposte anche dall'Europa, nel senso di palazzo, perché questa è una stagione dove bisogna tenere il curriculum pronto e ci si può proporre per esperienze importanti all'interno degli organi istituzionali. Con noi c'è Evelina Jelenkowska, capo del settore stampa e media della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Evelina, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Allora, agosto è un periodo in cui ci si può preparare, si può osare, si può anche fare un pensiero di andare a vivere un'esperienza professionale all'interno del palazzo. Sì. Abbiamo, diciamo che il periodo estivo, quindi entro fine agosto, quest'anno entro il 30 agosto, ci si può presentare ogni anno la domanda per poter andare a fare tirocinio cosiddetto Blue Book all'interno della Commissione Europea. Mm-hmm. È un tirocinio che è pagato, non è strapagato, però sono 1.100 euro, quindi basta per mantenersi, e dura 5 mesi. Quindi chi si propone adesso entra il 30 agosto potrebbe potenzialmente cominciare dal 1 marzo il periodo di 5 mesi all'interno dei servizi della Commissione a Bruxelles o a Lussemburgo. Certo, Evelina, bisogna avere un curriculum particolare, bisogna avere competenze specifiche? Beh, diciamo che bisogna aver completato 3 anni dell'università. Quindi questo è in principio una proposta per chi comincia la carriera professionale, quindi per i laureati all'università, ma anche per chi, diciamo che non c'è il limite d'età, quindi chi ha appena preso una seconda laurea, per esempio, e ha voglia di fare l'esperienza all'interno delle istituzioni, si può proporre. Perfetto. Facendo una domanda sul sito. Perfetto. È un sito dedicato per i cosiddetti stage Blue Book, al quale si può accedere tramite un sito generale cosiddetto EPSO, quindi dell'ufficio di reclutamento europeo, dove bisogna crearsi un account e presentare la domanda. Ok, ci puoi dire questo sito? Sì, questo è un europa.eu / EPSO. Perfetto. Eveline, qual è il valore di questa esperienza? Nel senso, di fatto cosa fa il tirocinante? Dipende cosa sceglie, perché la Commissione Europea offre praticamente possibilità di esperienza in qualunque campo. Siamo 33 direzioni generali, quindi dalle traduzioni passando al mercato interno, alla concorrenza, al diritto, ai servizi generali, eccetera, eccetera. Veramente la scelta è vasta. Infatti è molto importante farla ponderata, perché nella fase di fare la domanda viene chiesto al candidato la scelta dove andrà a fare la sua esperienza, dove vorrebbe farla. È importante sceglierla bene, nel senso che poi in funzione di questo anche il candidato verrà contattato, quindi è importante farsi un po' di cultura, se vogliamo andare un po' sul sito e vedere cosa la Commissione fa, anche per scegliere l'esperienza che si più addice al proprio percorso e ai propri interessi. Perfetto, insomma mi sembra un ottimo consiglio. E nei prossimi mesi invece c'è l'apertura di qualche altro concorso, di qualche altra opportunità? Nei prossimi mesi ci sono, diciamo che sempre sul sito dell'EPSO viene pubblicato tutto, quindi per chi è interessato a entrare e fare un'esperienza o temporanea come stage o un'esperienza come funzionario o come un collaboratore sulla base di un concorso cosiddetto CAST, quindi contrattuale, viene tutto pubblicato su questo sito EPSO. Oggi c'è già un preavviso che a dicembre verrà pubblicato un concorso per gli assistenti in vari settori, cominciando dalla pubblica amministrazione europea, ma anche nel campo di diritto, di statistica, di finanza e tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Perfetto. Sarà a dicembre di quest'anno. Daremo tutte le informazioni quando appunto ci saranno tutti i dettagli a disposizione. Un grazie ad Evelina Jelenkowska. Ciao Evelina, buona estate. Ci ritroviamo in una delle prossime puntate qui dell'Altra Europa. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Aina, che con me ha scritto la puntata, Filippo Aureggi oggi alla parte tecnica. L'appuntamento ovviamente è a sabato prossimo, quando continueremo a muovere muoverci, a darci una mossa in questa Europa che stiamo toccando per lavoro, per turismo, per volontariato e per scuola. Ancora buon sabato, ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.